Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sforzo 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24. Pier sta cercando di venire fuori vivo dall'intreccio. Sì, no, per ora l'intreccio 1, Pier 0, perché è tutto spento. Pierluigi, ti licenzio. Ma lo licenziamo. È un classico. È tutto spento, invece è tutto vivo sul mercato. 33 ore alla fine del mercato. Io credo, Pier, saranno le più divertenti, oltre che le più lunghe. Sì, sì. Poi... ci sono colleghi che non dormono più. Sì. Non vivono più. Esatto. Non smettono più di ricaricare il telefonino. Non so che cos'altro. Ma c'era un mio collega, Niccolò Ceccarini, uno di questi mercatari di Mediaset, che mi ha fatto vedere che andava in giro con due kit telefonici da ricarica portatile. Dice, uno tutto lo ricarichi due volte, l'altro lo ricarichi una volta sola. Insomma, mi ha spiegato che ci sono diavolerie per poter resistere, perché insomma poi i telefoni di nuova generazione consumano tanto, però insomma bisognerà anche un po' accontentarsi, nel senso che mi sembra che poi alla fine questo è un mercato che sicuramente dei colpi ce li darà, ma è anche un mercato figlio dei tempi, quindi insomma esattamente abbiamo vissuto tempi migliori come calcio italiano. Questa però notte ce lo faremo piacere. Il nostro amico Nicolo Schira mi ha scritto alle 2.50, pretendeva che aggiornassi il live. Vabbè, alle 2.50 il signor Schira, ma loro vivono su un altro fuso orario oggi. Però ragazzi, carissimo Pier, intanto auguri. Per cosa? È il primo compleanno, 30 gennaio 2013, il giorno dello sbarco di Balotelli a Milano. Ah, è vero. Te lo ricordi un anno fa? Senti, ti faccio sentire qualcosa, senti, perché si parlava di questo. Se metti una marcia dentro lo spogliatoio, può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Il presidente non si è scusato, il presidente ha precisato di non aver mai detto questa cosa, che è un po' diverso. Abbiamo un po' di nostalgia, 38 partite, 25 gol. Ma si cambia idea nella vita, su, 18 dai, non essere come un'espulsione, 6 giornate di squalifica scontate, 7 che diventeranno 7 domenica. Mi dai un voto a Balotelli, quest'anno di Balotelli? Ma tutto, non solo in campo, dai. Gli do 6 e mezzo, perché i numeri sono comunque numeri importanti. Però è un 6 e mezzo che poteva essere 8 se riuscisse a controllare un po' di più la sua indole. E quindi da un certo, insomma, è un ragazzo che vale 8 e che prende 6 e mezzo. Per cui se, no, i genitori che gli dicono sei stato bravo, te la sei cavata. Impegnati di più, esatto. Uno un anno fa gli diceva è bravo ma si sta bruciando, perché di lui si parla solo per il gossip, non ha amici, se fossi suo amico cercherei di farlo riflettere. Sai chi è? Chi è? Adel Tarbat, quello che... Senti come ne parla Massimo Marianella, che lo conosce. Claudio Ranieri, altro straordinario secondo me allenatore, mi disse sempre una cosa: ricordati che in un gruppo sano è la mela marcia che si adegua. In un gruppo che ha dei problemi, se ne arriva un altro, è un problema grosso. Oh, ci divertiremo? Ci divertiremo con Tarabt. Come si dice? Tarabt. Ha detto Briatore che andrà protetto e coccolato. È un po' l'epoca, servirà amore, è un po' il momento dell'amore, peace and love ovunque. Ma insomma, diciamo, innanzitutto è una situazione che sta diventando comunque interessante, no? Nel senso che comunque c'è un ulteriore aumento di tasso tecnico. Poi credo che quello ha detto Marianella a proposito, cioè il riportare quella frase di Ranieri sia un momento fondamentale. Il punto è capire se in questo momento lo spogliatoio del Milan è uno spogliatoio che riesce a far rendere al meglio un eventuale mela marcia, se lo sarà, insomma. Sicuramente sì, ha un caratterino anche in campo, io qualche domandina ce l'avrei, perché c'è Balotelli, c'è Pazzini, ci sarebbe il Sharawi, che prima o poi torna, poi c'è Kakà, Rubinho, c'è Ondà, c'è lui, c'è Birsa, c'è Saponara, c'è Montolivo, alla fine più di 4 credo che anche Seedorf dei giocatori offensivi non ne farà giocare, c'è Sien che toglierà il posto a qualcuno, sarà divertente capire. A proposito di amore, serve amore, ti ricordi cosa ha detto Walter Mazzari domenica dopo Inter Catania? Sentilo. Sentivo un vostro collega, perché mentre passo dalla televisione sento anche altre cose. L'allenatore bravo è quello che si fa prendere i giocatori forti. Io non ci sono mai riuscito. Sarà un destino, ma secondo lei a me non mi garba allenare giocatori che vengano dal Real Madrid o dal Barcellona. Anche i miei giocatori che sono qua non sarebbero gelosi se io dico voglio uno di questi, perché lo sanno anche loro che se si piglia un giocatore forte aiuta a vincere anche loro. Mi trovo nelle situazioni che io questa bella fortuna non ce l'ho, che posso chiedere quello e me lo prendano perché si va col cash e si porta a casa. Secondo te ha trovato il cash, Toir? Secondo o ha ascoltato Mazzarri? Secondo me sta cercando di scassinare il salvatanaio. O sta prendendo in giro tutti? I tifosi interisti, dico. La sensazione è che lui abbia capito la gravità della situazione. Il viaggio in Italia, la visione di Inter Catania certamente non avrà migliorato il suo umore, la voglia di fare una buona figura. Il problema è che quando lui è arrivato i danni erano già stati fatti, i giorni erano pochi e i soldi non sono tantissimi. Quindi vediamo, mancano appunto 30 ore per la vita, mi viene a dire. No, che 33 ore. A proposito di Mercatari, il numero uno, Carlo Laudisa. Ciao Carlo. Ciao, un buongiorno a tutti. Ciao Carlito. Ti va bene la definizione di Mercataro? Ma no, non personalmente, perché io purtroppo da tempo mi batto perché questa categoria venga valorizzata, quindi questa accezione la vedo negativa. Quanti facciamo cronaca a dispetto di chi... Ma guarda, pensa che solo le bufale. I giornalisti di mercato. Scusami la presunzione, ma noi non ci offendiamo. Sono più bravi di tutti. Mercatario era in senso buono. Io non sono i più bravi di tutti. Certamente, sono i più popolari di tutti. Perché insomma, guardare il numero di follower di Laudisa rispetto ad altri suoi colleghi della Gazzetta. Cosa sei? 40.000 è andato di fa. 45. Ringrazio. Ma non era la mia, era difesa della categoria, non della mia persona, perché. Ma anche a comprovare quello di cui poi parleremo adesso, io credo che il mercato del calcio dal punto di vista giornalistico sia non solo la vetrina ma anche il banco di prova più difficile, perché bisogna comunque convivere con le bufale e bisogna evitarle e bisogna convivere con colleghi che sono altrettanto bravi, tanti, perché poi ci sono anche quelli che scrivono bufale e basta. Convocati 800 24 00 24. Carlo Laudisa, Pierluigi Pardo ha appena intercettato un tweet di non so se un mercataro, poi lasciamo stare di definire. Ilario Di Giovan Battista, sì, direttore, sì, di Radio, sì. Radio Pier, che dice che Hernanes si lacrime, sta salutando i tifosi al termine dell'allenamento. Toir a Roma, si va verso la chiusura, si è tutto, va è tutto o fatto? No, verso la chiusura. Confermo. I segnali sono positivi, nonostante l'uscita di Mbaye dalla trattativa. A quanto? È una cifra che sicuramente salirà, adesso dobbiamo scoprirlo. Certamente più di 13, la cifra che era stata individuata inizialmente. Diciamo più di 13, meno di 20, magari vicino a quel 17 che Lotito diceva serviva per lo scarpino sinistro di Hernanes. Io non so che valutazione dai tu, Carlo, se è un buon affare per l'Inter a quelle cifre, soprattutto se dovesse essere tutto cash. Allora, io parto dal presupposto che è una soluzione popolare, visto che era stato bocciato lo scambio tra Vucinic e Guarin dalla tifoseria nerazzurra. Sicuramente Hernanes verrà accolto a braccia aperte. Dal punto di vista finanziario è un tarasso che evidentemente Toir responsabilmente si ritiene di fare, alla luce anche dei problemi finanziari imponenti dell'Inter. Mi sembra una scommessa davvero da valutare col tempo, perché se non ci fosse un ritorno l'operazione Hernanes, io credo che l'Inter stia facendo un salto nel buio. Certo, intanto sul nostro profilo Twitter, c'è la foto. C'è la foto di Hernanes in lacrime a Formello che saluta i tifosi. Mi pare di capire, visto che è tutto un intreccio tra Milano, Roma, Torino, Londra, Valencia, che siano minuti decisivi anche per la Juventus, perché sembra che si stia un po' sciogliendo questo intreccio, ad esempio la parte di Vucinic, Carlo, che alla fine potrebbe andar via davvero, potrebbe però non finire in Inghilterra, leggevo da qualche parte. Sì, sono ore convulse perché c'è Lucci in attesa di una chiamata, vedremo se parte per Valencia o se parte per Londra con l'Arsenal. In ogni caso la Juve si sta muovendo molto decisa sullo svalto, e questo la dice lunga. Vediamo se nel frattempo si muove qualcosa anche per Quagliarella, perché non mi stupirei se venissero sistemati entrambi all'estero. Sì, è un po' una sorpresa, Pier, questa Juventus sì. che ribalta tutto in attacco, soprattutto se partissero tutti e due, Vucinic e Quagliarella. Io immagino a quel punto anche un'altra operazione in ingresso, magari un esterno, magari Nani. Insomma, sarebbe una bocciatura per quelli che ha, nel senso che anche se delle volte, soprattutto nell'anno del Mondiale, lo spariglio diventa fondamentale. Cioè, Osvaldo chiaramente stava faticando a livello ambientale in Inghilterra in maniera molto significativa. Vucinic cominciava ad avere poco spazio. Ovviamente Quagliarella ha delle ambizioni ancora in chiave mondiale. Quindi questo discorso a gennaio ci sta, e ci sta soprattutto negli anni delle grandi competizioni. Quindi, però, ecco, tecnicamente faccio fatica a pensare che ci sia una così grande differenza fra Osvaldo e Vucinic, tanto per fare un esempio, no? Quello che cambia sono caratteristiche e motivazioni. Osvaldo è più compatibile tecnicamente con l'attuale coppia titolare. Vucinic, io credo che fondamentalmente paghi un'usura nel rapporto più con Conte che con la società. A proposito di telefonini che squillano, quello di Marcelo Ferreira è squillato oggi o ce la trasciniamo fino domani alle 22:59? Marcelo Ferreira, procuratore no. di Guarin. Allora, nelle aspettative dell'Inter la vicenda di Guarin si può trascinare fino a lunedì, quando sì. chiude il mercato in Turchia, perché l'Inter sta spingendo perché Guarin vada al Galatasaray da Mancini. È chiaro che le ore sono sempre meno, e quindi l'idea che un last minute pro Juve diventa sempre più difficile, però nella testa del giocatore al momento c'è solo quest'idea. E invece su Nani, perché oggi la Gazzetta ha preso una posizione, Pier, diversa da quelle di tutti gli altri giornali che oggi raccontavano, ieri del resto era stato il tema del pomeriggio l'inserimento dell'Inter su Nani. Oggi la Gazzetta dice in realtà è il giocatore che è stato offerto all'Inter, ma non ci sono i presupposti economici per farlo, soprattutto credo per l'ingaggio. Carlo? Pronto? Sì, Carlo, sì. Dicevamo sì, scusami, di Nani. No, Nani... Detto molto sinceramente, ieri l'Inter ha raffreddato molto questa pista. L'impressione è che ieri se ne sia parlato perché è stata prospettata questa soluzione di mercato, ma non credo che l'Inter sia interessata. Questo a ieri sera. Beh, evidentemente insomma, l'Inter secondo me si è mossa negli ultimi giorni in maniera molto significativa in mille direzioni. Toir una scossa, ecco, questo ti posso chiedere, Toir una scossa l'ha data dal punto di vista proprio dell'impulso sul mercato dopo giorni che erano stati veramente di stand by, sì. con l'unico episodio poi chiaramente dello scambio saltato? Beh, è chiaro, visto che è stato lui a farlo saltare, avendo detto no, era impellente, era necessario che il presidente prendesse in mano la situazione. Sì, si è accorto evidentemente che serviva un intervento. Grazie Carlo. Scusate, io devo andare. Prego. Alla diretta gazzetta.it. Ti stiamo salutando, vai. Grazie Carlo. Ciao a Carlo Laudisa. Pier, ti faccio sentire il miglior amico di Mazzarri, visto sì. che restiamo a Beppe Accardi, procuratore certo. di Mbaye. Certo. C'è andato leggero, Sentiamo. La mia idea è che Mazzarri è un allenatore inadeguato per l'Inter, però sono questione di opinioni. L'Inter secondo me non è una squadra così scarsa, è una squadra che ha perso autostima. Nella vita bisogna essere meno egoisti e rispettare anche chi ti ha portato lì, perché oggi la mia sensazione è che tutto quello che hanno fatto gli altri è sbagliato, che poverino io ho trovato questa situazione, ma non vi dimenticate che l'Inter non può essere più scarso del Catania. L'Inter non può essere più scarso del Catania. Secondo me Mazzarri ha rigato la macchina a Beppe Accardi. Perché che non l'Inter corre non sia più scarsa del Catania, la classifica sembrerebbe dirlo, anche se secondo me il Catania ha ancora possibilità di salvarsi, è tutt'altro che chiuso. Sì, ma non è facile lì. Trovare un operatore di mercato parla così di un allenatore di una grande squadra. In un momento come questo mi sembra troppo facile, no? Attaccare Mazzarri in questo momento mi sembra veramente troppo facile. Sai cosa ha detto Beppe Accardi? Ha detto anche se Pogba vale 100 milioni in Bayern ne vale 200, quindi se Pogba è Monet, ma Bayern vale tutto. Ho fatto una ricerca. Il quadro più venduto, 250 milioni di euro nel 2011, è i giocatori di carte di Cézanne. Quindi in Bayern vale leggermente meno di Cézanne. Sì, infatti sì. L'ho messo nell'angolo cottura. Sì. Roberto dalla provincia di Perugia, 800-24-0024. Roberto. Buongiorno. Buongiorno a te. Grazie di avermi convocato. Io sono uno juventino avvilito per questo calciomercato di gennaio. Volevo conoscere una vostra opinione per quanto riguarda queste azioni della Juventus un po' frastornate, insomma, non per colpa sua, ma anche perché vedo che non vedo la Juve intenzionata a acquistare ciò che gli serve, cioè un esterno. Sì, il mio voto al mercato della Juve, se fa Osvaldo, è 7 però. È un buon acquisto per la Juve. Ma infatti mancano queste 30 ore. Per ora l'unica vera trattativa che avevamo visto era questa idea di scambio Vucinic-Guarin, che secondo me tecnicamente ci stava da tutte e due le parti, non mi faceva impazzire da tutte e due le parti, mi dava l'idea nella Juve che fosse in qualche modo la premessa per un'eventuale mega cessione di un centrocampista. Pensiero che abbiamo avuto in tanti. Bisogna aspettare 30 ore. Sicuramente, insomma, sì, al di là del discorso di prima delle caratteristiche di Osvaldo e di Vucinic, non mi pare che cambierebbe molto, usiamo ancora il condizionale, questo tipo di situazione. Sì, anch'io mi aspettavo qualcosa in più, mi aspettavo un atteggiamento un po' diverso. Va anche detto che la Juve uscirà dalla Champions, e questo significa quindi aver perso una parte di possibili introiti e aver perso un obiettivo. Con tutto il rispetto per l'Europa League, con la finale a Torino la Juve la onorerà, ma è chiaro che il tipo di investimento che forse avrebbe fatto con la strada della Champions ancora aperta sarebbe stato diverso. Secondo me il segnale più importante di queste 3 settimane di mercato della Juventus è che viene ribadita più che mai la centralità di Conte, perché Conte Osvaldo lo vuole, perché Conte ha detto che fino al 2018 è pronto a restare, e quindi credo che la Juventus sia pronta ad aprire una seconda fase di questo ciclo vincente. Ma ti faccio sentire Marotta a proposito di Osvaldo ieri. Osvaldo le piace? Ma Osvaldo è un nazionale italiano, quindi chiaramente non piace solo a me, ma piace a tante altre squadre. Intanto Messi sta trattando un rinnovo, 20 milioni più 5 di bonus a stagione. Quindi niente Paris Saint-Germain. Niente era, Inter. Era un modo ti ricordi per... che tu hai detto che bisognava parlarne col management. Niente Inter. Ci fermiamo un minuto, torniamo. 800 24 00 24. Tutti convocati. Intanto c'è una petizione, ci scrivono 349-238-6666, Pier, ti vogliamo bene, fai retromarcia, farti quelle rale dalla Gazzetta per difendere chi è indifendibile, cosa hai combinato? Non mi guarderà nessuno, no, nulla, l'altra sera la Gazzetta, Gazzetta.it ha riportato questa presunta rissa fra Balotelli e DJ Francesco, e DJ Francesco ha chiamato in diretta da noi. Che non abbiamo minimamente preso posizione, abbiamo ospitato la sua telefonata nella quale lui ha detto che assolutamente non è successo niente. A me della vicenda in assoluto me ne frega fra zero e meno infinito, cioè a me di sapere se Balotelli e DJ Francesco si sono menati, quindi non ti interessa sapere se erano schiaffi, no, spintoni, no, non mi pugni, interessa, non mi interessa. Detto questo, nel momento nel quale questa cosa è stata fatta diventare una notizia da un'altra testata, e c'è una persona che ha telefonato in diretta alla trasmissione per esprimere un punto di vista, penso che non ci sia stato niente di male. Ribadisco, non abbiamo preso parte nei confronti di nessuno e francamente sono abbastanza basito dall'atteggiamento. Perché sono tutti preoccupati. Ma non sto né da una parte né dall'altra, ripeto, proprio non me ne può frega di meno, ve lo dico proprio in maniera dai romana. Fate la pace, eh? Fate no, la con pace. Chi? Pardo, con chi? Pardo alla Gazzetta, immagino. Ma stiamo scherzando, io non ho, mi ha chiamato con 10 minuti fa, io non ho litigato con nessuno, e chi ha visto Tikitaka, che fra l'altro credo sia anche online da qualche parte sul sito di Sport Mediaset, potrà vedere che la telefonata è durata 42 secondi e comunque insomma, mi sembra che Berlusconi una volta chiamò Floris a Ballarò, non credo che Floris per il fatto di aver ospitato una telefonata di Berlusconi a Ballarò fosse berlusconiano per no, forza. Non credo. Quindi è chiaro che se nel momento nel quale una persona viene tirata in mezzo e viene accusata di aver fatto qualcosa, credo che abbia il diritto di poter dire che non l'ha fatta. Punto. Assolutamente. Poi è una questione fra chi ha scritto questa cosa, che dice che è vero, e le parti in causa. Noi non c'entriamo nulla. Grazie. Andrea da Udine. Andrea, buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio, io volevo chiedere chi sarà il nome del difensore che completerà un grande mercato della Fiorentina, che ha preso delle alternative come Matri e Anderson, che sono da grande squadra. Chi sarà il nome del difensore? Io so che è stato fatto un tentativo per Samuel, però l'Inter ha in ballo la cessione di Ranocchia, quindi Samuel non lo fa andare. Mi risulta si torni sui soliti due nomi, uno l'ha fatto anche Della Valle, Dainelli, l'altro è di Akite. Mancano 33 ore, possiamo aspettare. Pierre. Confermo, fra l'altro è stato appena presentato Anderson e mi risulta che gli sia stato chiesto in conferenza stampa da un collega se fosse o meno gay e lui ha detto di no. Questo è stato interessante. Sì, interessante perché evidentemente Anderson, voglio vincere a Firenze, io gay, amo le donne, ma gli è stata fatta questa domanda su un presunto rumor e lui ha espresso insomma invece la sua passione per le donne. Questo è stato il titolo della conferenza stampa di Anderson. Ma insomma sono temi evidentemente sociali che appassionano. Evidentemente interessa, no? Esatto. Ubaldo da Vicenza. Ubaldo, buongiorno. Eccomi, ciao. Volevo fare una, dato la trasmissione mi piace, molto bella, grazie a tutti. Grazie. Volevo una cosa su Balotelli, guarda, parlano di Balotelli qua, Balotelli. Io darei, per la mia opinione, per carità, non è che sia un'opinione, un bel 5, perché per me è maleducato intanto e si comporta male in campo. Dopo, questa è la mia idea, non so. Sì, quindi un bel 5 a questa prima stagione, a questo primo 5 anno. Condotta in pratica. Primo anno solare. Quest'anno era l'anno di Balotelli, ma purtroppo non è l'anno di Balotelli. No, ma io in parte sono d'accordo, Ubaldo, anche perché anche Balotelli in realtà fra una squalifica e l'altra poi è mancato nei momenti in cui il Milan, soprattutto in questo campionato, ha fatto davvero fatica. E se tu da Balotelli ti aspetti che sia l'uomo in più, quello, il leader, il trascinatore, almeno dal punto di vista tecnico, se non di spogliatoio, certamente questo è un limite. Domande che si è fatto anche Prandelli prima di decidere che serve Amore e che andrà così fino al Brasile. Prandelli ha scelto questa strada. Io ribadisco il diritto di ogni tifoso italiano di stare con Balotelli o di non starci, cioè non abbiamo l'obbligo di dover amare Balotelli, soprattutto fino a quando non lo vedremo con la maglia azzurra rappresentare tutti noi assieme agli altri 10 che scenderanno in campo con lui. Prima, chiaramente quello è un punto di vista di Prandelli, è un punto di vista che io capisco, che posso condividere dal suo punto di vista, perché è chiaro che in questo momento lui ha bisogno di dare nei prossimi 3-4 mesi la maggiore serenità psicologica a Balotelli affinché possa rendere. Ciò non toglie che il tifoso del Cagliari l'altro giorno, che si è visto fare il gestaccio, non è che gli puoi chiedere di amare Balotelli e di mettersi il poster in camera perché gliel'ha detto il CT della nazionale. Quindi credo che questo sia il punto di vista di Prandelli, è chiarissimo, ma ci sta che insomma Balotelli è un personaggio divisivo, sicuramente è un personaggio che poi in campo spesso cerca la provocazione, ma ne abbiamo parlato mille volte, la cerca secondo me anche per un suo modo di caricare se stesso nella partita, non sempre ci riesce, delle volte riesce a fare molto bene. C'era il pezzo di Sconcerti l'altro giorno sul Corriere della Sera, secondo me è illuminante da questo punto di vista, no? Perché il tema è sempre quello. Balotelli è un personaggio che divide, fa cose fantastiche, fa degli errori. Alla fine la somma algebrica qual è? Per me la somma algebrica di quest'anno è 6,5 ed è un peccato per lui, per il Milan e per il calcio italiano che non sia 8 come poteva essere con la somma algebrica di quest'anno solare. Poi esatto, magari se prendiamo da settembre in poi il 6,5 diventa 5,5, esatto. Fino a giugno può essere 7,5. Ci sono anche 6 rigori, questo lo dico, perché non ci scordiamo nulla, e segnare sul rigore è un po' più facile. Non aprire la pagina sul rigore dell'anno scorso, perché altrimenti chiamano gli amici della Fiorentina, del Milan. Però se fai 12 gol su azione è diverso che se fai 6 calci di rigore e 6 gol su azione, tutto qui. È un meraviglioso trasformatore. A proposito, poi parleremo anche di rugby, di trasformazioni, perché parte il 6 Nazioni in questo weekend. Maurizio da Bari. Maurizio, ciao, buon pomeriggio. Grazie. Prego. Per la convocazione, buongiorno. Dici. Senta, io sono un tifoso dell'Inter, purtroppo ahimè deluso, perché secondo me Hernanes, tra virgolette, è un contentino. Secondo me Tohir, a posto di comprare questi giocatori che, tra virgolette, per me Hernanes non serve all'Inter, servirebbe una punta tipo Osvaldo, che ahimè ha rifiutato l'Inter, però va alla Juventus. Dovrebbe prendere comunque, secondo me, un grande dirigente che secondo me ieri ha fatto dei colpi straordinari, che secondo me è il signor Sabatini della Roma. Ma il signor Sabatini della Roma in questo momento penso stia bene a Roma. Sì, poi soprattutto come dice Gagliani, certo. Perché con questi ha comprato Paredes, che è un giocatore straordinario, il nuovo Vucinic, il nuovo Ibrahimovic, se non mi errato è Berisha. Sì, è Berisha, però Maurizio, i colpi di questo mese di gennaio magari li giudichiamo tra qualche mese. Sabatini è certamente un ottimo direttore sportivo per quello che ha fatto nelle ultime due stagioni. Perché, ad esempio, Tarabt, se lei va su Google e viene definito il nuovo Zidane, nuovi Ibrahimovic, nuovi Zidane. In Argentina sono decine, c'è stata una piantagione di nuovi Maradona. Quello che ha fatto in questo mercato certamente sembra intelligente. perché ha tanti investimenti sui giovani, però magari lo giudichiamo tra qualche mese. Come dice Gagliani, i direttori sportivi non si possono muovere durante la stagione, vale anche per Sogliano, eh. Infatti il Milan sta facendo mercato senza direttore sportivo. Ma in questo momento, in questo momento io credo che Sabatini stia bene a Roma, sinceramente è nel momento migliore, perché e questa sessione di mercato lo conferma, perché in questa sessione di mercato abbiamo visto il Sabatini che si può anche lasciare andare a qualche licenza poetica, che può andare a cercare dei ragazzi in giro per il mondo, ne compra 5 e basta che uno sbocci per aver fatto già una plusvalenza pazzesca. Non dimentichiamoci che anche nei due anni molto dolorosi per la Roma di Luis Enrique, di Zeman, di Andreazzoli, però quella parte lì aveva funzionato, perché la Roma ha preso la mela, l'ha pagato poco, l'ha venduto tanto. La Roma ha preso Marquinhos, l'ha pagato pochissimo e l'ha venduto tantissimo. La Roma ha preso Osvaldo, che comunque in quei due anni si è pagato da solo, no? È un investimento che è ammortizzato, quindi i problemi della Roma nei primi due anni sono stati tecnici, sono stati forse di rapporto fra società e giocatori, di disciplina, ma non certo di scouting, cioè di andare a prendere i giocatori giusti. Intanto ti do qualche notiziola, quella di mercato. Hernanes non mi sembra un contentino. No, ma Hernanes è un gran colpo. Semmai si può discutere sul fatto che poteva arrivare in maniera migliore, no? Cioè l'Inter si è trovata un po' strozzata di fronte a questa trattativa, perché Vucinic, Guarina, ma a me i tifosi dell'Inter fanno impazzire, perché prendevi Vucinic e ti dicevano che il problema era il centrocampista, prendi il centrocampista di qualità e ti dicono che serviva Osvaldo, probabilmente prendi D'Ambrosio e non serviva nemmeno l'esterno, e poi però a San Siro contestano Zanetti dicendo che non è più presentabile in Serie A. Però è il bello anche del calciomercato. Ti do qualche notizia, qua e là, Postiga ufficiale alla Lazio, si tratterà poi del riscatto a giugno, ma è fissato in 3 milioni e mezzo. A proposito di notizie, c'è Ghoulam che è arrivato a Napoli, 5 milioni e mezzo, ha fatto le visite mediche, sta per iniziare ad allenarsi e quindi è a disposizione Napoli, che sta tentando anche di prendere Capue ancora, però sì. 12 milioni non bastano. Mi chiedo perché per il Napoli doveva comprare un difensore, con tutto rispetto per Enrique, sì, il anche secondo me, mi chiedo perché il Napoli quei soldi non li avesse ad esempio per Guarin, che offriva Cannavaro e un po' di mancia, perché sono logiche di mercato, no, difficili da capire. Al Napoli piace di più di Guarin, e Guarin è stato un tentativo quando c'è stato il gran rifiuto low cost fra Inter e Juve, si è cercato di sfruttare il momento di difficoltà dell'Inter per il mercato vive di queste logiche. Poi un mercato come quello di gennaio, che è più corto, ce l'ha ancora di più, no? Si crea improvvisamente un'occasione. Un nostro amico ci dice che un suo amico che lavora in un grosso hotel di Londra dice che da 3 giorni hanno una prenotazione aperta per Eric Toir, magari non va o va per cose personali, però questo nostro amico voleva informarci. Sì, questa salutiamo mattina, Antonio questa mattina è partito, siamo tutti svuotando l'armadietto. Toir è partito da Milano, sì, l'armadietto, è andato a Roma ufficialmente per incontrare l'ambasciatore d'Indonesia. Però insomma la verità è che parla anche di Hernanes. Un giorno alla fine del mercato, forse lo incontri il 2 febbraio l'ambasciatore d'Indonesia, perché da poi fa quello che vuole Toir nella vita, non è. Sharaf, dico bene? Da Ferrara? Sì, giusto, giusto. Prego, tifoso Sharaf della SPAL? Come? No, tifoso della Juve. Vabbè. Prego. No, buon pomeriggio. Allora, intanto volevo dire una cosa su Tarabt, che sì, si chiama Tarabt, non Tarabat. Ma sbaglio io, eh. Qui c'è il maestro Pierre che mi corregge. Sì, il signor Tarat. Esatto. Sì, Pierre per esempio commenta sempre su PES per quello. Ah, grande. Allora, diciamo che è un giocatore, come diciamo sempre noi in Marocco, è un giocatore da quartiere, troppo innamorato del pallone, di solito fa tutto di testa sua. Diciamo un'altra mela marcia, vediamo come si comporta. C'è ottimismo, insomma. Sì, ma ci ha fatto soffrire a noi con la nazionale. Tra l'altro, ha scelto di giocare col Marocco, non con la Francia, sì, perché ha detto che in Francia sono razzisti. Prepariamoci, sì, anche qui, sì, secondo me, alle scintille nei prossimi mesi. Ci ha fatto soffrire tanto. Allora, io volevo lanciare una provocazione per gli interisti. Siccome nella puntata di lunedì un tifoso dell'Inter aveva detto che Vucinic è un giocatore mediocre, allora dico agli amici interisti che loro hanno fatto lo scambio Cassano-Belfodil con tanti soldi al Parma, che Cassano, diciamo, se fanno tutto il riassunto di tutti i giocatori d'attacco dell'Inter, non hanno tutti la tecnica di Cassano, che è un giocatore che basta vedere i stop che fa al volo, diciamo. Sharaf ha ragione, io invito a rileggere cosa veniva scritto a luglio di Belfodil, veloce, tecnico, potente. Se uno non leggeva Belfodil pensava che l'Inter avesse preso Cristiano Ronaldo, perché c'era tutto, tira da lontanissimo, bravo di testa. Io credo sia veramente la delusione più delusione di questo mercato, anche se oggi c'è questa voce di Icardi al Monaco, anche io non capisco il progetto giovani di Toia. Adesso va bene uno dei due, però Pier. No, ma lì siamo di fronte a due fallimenti clamorosi. Il vero dramma dell'Inter è stata la sessione estiva, sicuramente, di mercato, perché lì dovevano arrivare dei giocatori. E io onestamente, adesso non è per difendere Cassano, ma dico in assoluto che mai come in questa stagione l'Inter ha proprio la mancanza di un giocatore capace di far sognare di voi, cioè anche nei momenti difficili, anche negli anni del recobismo, però l'Inter ci aveva sempre in canna la possibilità, il talento magari incostante che riuscì a fare delle giocate, quindi secondo me manca un giocatore con quelle caratteristiche. Perché secondo me il profeta è il giocatore che può riaccendere un po' il motore dell'entusiasmo. Che fa Hao? Shakram. Tutti convocati. Un mio amico mi ha informato di una prenotazione di Pardo in un motel della provincia di Bologna. Marco. Sì, a Zola Pedrosa. Zanetti impresentabile, era meglio che evitasse. Jonathan impresentabile, Max. Ma noi non abbiamo detto che è impresentabile, abbiamo detto che i tifosi dell'Inter si lamentano perché Zanetti non può più giocare. Non abbiamo detto che è impresentabile, abbiamo detto che probabilmente prendere un esterno per l'Inter nel caso di D'Ambrosio è una soluzione intelligente. Arrivo di Akite alla Fiorentina, mancano solo i dettagli per l'ufficialità. È chiaro che insomma che Aviassanetti o Zanetti, pronunciatelo come volete, sia ancora oggi uno dei migliori dell'Inter, una delle certezze dell'Inter, da un lato è bellissimo per la carriera di questo giocatore eccezionale, dall'altro è un po' triste, perché vuol dire evidentemente che l'Inter negli anni non ha saputo costruire soluzioni alternative. Detto questo, insomma, Zanetti rientra come Maldini, come Totti, come Del Piero in quelle bandiere. Si diventa retorici, mi annoio quasi a dirlo, ma è chiaro che è così, insomma, sono l'essenza stessa del calcio questi giocatori. Ulisse ha fiducia nella coppia Mazzarri-Toire, quindi ha smesso di farsi domande sul mercato dell'Inter, secondo me ha fatto benissimo. Poi c'è un amico che chiede come stanno andando i test a Jerez della Formula 1. Benissimo, oggi hanno acceso le macchine, ce l'hanno fatta. E quindi è già un passo avanti. Abbiamo convocato Giampiero Timossi. Ciao Giampiero, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Timo, come va? Per capire a che ora giocano Genoa e Samp, interessa anche a Pier, che non sa se deve muoversi verso Genova domenica, lunedì, sabato, quando? Interessa un po' a tutti, non soltanto a Pier. Non è ancora chiarissimo, questo direi che è il primo problema. A questo punto, dopo l'incontro di ieri in prefettura, è possibile, anzi è probabile che la partita venga spostata, venga fatta scivolare a lunedì sera. Forse alle 20.45, questo è l'orario più probabile, perché anche sull'orario c'è qualche incertezza, o magari addirittura alle 21. Non c'è ancora ovviamente una decisione ufficiale, e questo direi che è un enorme pasticcio. Non c'è l'ipotesi domenica sera, domenica tardo pomeriggio? No, tardo pomeriggio a sto punto direi non la posso fare sta partita, dai, su. L'ipotesi, no, ma però questo potrebbe essere un ottimo motivo dirlo. Per confermare l'orario di domenica. Portatelo come argomento sul tavolo della prefettura domani mattina, perché la prefettura sono pazzo per il derby di Genova. La cosa che posso mi fa fare impazzire, outing, sono pazzo per no, il ma derby è bellissimo, di ammesso che entrino i tifosi. È bellissimo, ammesso che entrino i tifosi. La cosa che mi fa impazzire è che questo problema è lì da quanto? Da una settimana si sa che i tifosi protestano. No, ma anche di più. Anche di più e decidono domani mattina. Sì, domani mattina. Sì. Ma guarda, questa a me la cosa che fa impazzire di questa vicenda è che è una vicenda piena, come spesso accade, di luoghi comuni. E questi ormai sono vecchi, non mi piacciono più, non li sopporto più. Si dice che le partite vengono messe a quell'ora perché è un'esigenza soltanto di alcune televisioni. Questo non è, sappiamo tutti che non è vero, sappiamo che il sistema calcio si regge anche grazie, soprattutto in questo momento grazie a quelli che sono gli interventi di queste società private, di questi investitori. Si dice che adesso l'ultima dichiarazione è che la partita non si può giocare nel pomeriggio, perché questo invece è un problema reale che si sapeva, però, perché sono secoli che funziona così, domenica prossima c'è la fiera di Sant'Agata. Allora ho letto proprio sul secolo XIX alcuni esponenti politici che dicono che no, la concomitanza della fiera di Sant'Agata con la partita, quindi la partita al pomeriggio eventualmente, potrebbe creare dei problemi di ordine pubblico. No, ora vedete quelli che vanno alla fiera di Sant'Agata che il classico tafferuglio con la porcellana in mano, certo. Il problema di ordine pubblico era il problema che purtroppo i tifosi, si temeva che i tifosi da una parte e dall'altra, restando fuori dallo stadio, avrebbero potuto, anche questo non lo so se era legge, creare dei problemi di ordine pubblico, però non si ha il coraggio di dire la verità. Ma questa cosa qui, che la concomitanza, certo, tra quelli che vanno alla fiera di Sant'Agata e i tifosi può creare problemi di ordine pubblico. Timo, questa cosa qui si risolveva dicendo alla Lega, a chi fa la riunione per decidere anticipi e posticipi, occhio, perché in quella domenica non si può giocare. Il derby di Genova si giocava sabato sera, ore 20:45, in un orario che penso andava bene a tutti. Io quello che voglio dire, quando sento parlare spesso di televisioni, le televisioni, se hanno una partita alle 12:30, comunque fanno una partita alle 12:30, non è quello. A me come orario personalmente non piace, perché per me il calcio è la sera, per me la vita è la sera, cioè le mattine proprio io faccio fatica, però sì, tu ti svegli dalle 10 in poi, e quindi comunque sia, alle 12:30 una partita che è separata dalle altre, è una partita che ha una visibilità diversa. Io credo, Timo è di Savona, però insomma lavora nel principale quotidiano. Sono di Genova. E allora perché ci siamo visti a Savona quella volta lì? È la vita. Ho fatto mangiare la fugassa la mattina dentro. Vabbè. Però io penso che per un genovese che è innamorato di questa partita sia bello che questa partita venga vista dal maggior numero di persone possibile anche fuori da Genova. Io credo che questo sia un valore. Cioè io... Questa è anche la posizione che ho tenuto io sul mio giornale. Il giornale poi giustamente ha raccontato quelle che erano le posizioni di alcuni dei tifosi, di alcuni esponenti della città, anche di altri colleghi, perché questa è la posizione che ho tenuto anch'io. Mi è stato detto, tu lavori per una grande televisione, io collaboro con un'altra grande televisione, mi è stato detto che il mio era un discorso così interessato, no? Io ho replicato anche sul nostro sito, nelle lettere che ci sono arrivate, che non posso devo dire quello che penso, e penso la stessa cosa che pensi tu, nel senso che non si può accusare questo spostamento di rendere meno visibile, meno importante una partita come il derby di Genova. Il derby di Torino, che è un'altra partita importante, ovviamente per i genovesi meno importante, però è già stato giocato a quell'orario. A quell'orario vedi la partita da sole, quindi non è la concorrenza delle altre partite. No, ma poi tra l'altro è legittimo che i tifosi, scusami, chiedano di giocare in un altro orario. Non è legittimo, e questo lo continuo a pensare, che si dica che nessuno può entrare allo stadio, come si capiva, intuiva da determinati comunicati. Questo io, perdonatemi, ma sono ancora un sincero democratico e non credo che questo sia l'atteggiamento giusto. Puoi non andare allo stadio, i tifosi del Bari lo hanno fatto per anni, secondo me era una protesta a modo suo straordinaria, ma non puoi impedire a chi vuole andare allo stadio di andare allo stadio. Questo non continuo a non accettarla, non lo accetterò mai. No, ma poi tra l'altro noi continuiamo a brillare per programmazione, perché due mesi fa Galliani ha preso un DA e ha detto spero che il Milan giochi alle 12:30 o alle 15. Toir è andato in Lega e ha detto fatemi giocare presto perché è il mercato della TV indonesiana. Io vi invito a guardare i posticipi e gli anticipi da qui alla 13ª, quindi Milan praticamente non giocano questa mai. Questa volta bastava invertire Milan Torino e Genoa Samp. Milan Torino alle 12:30, perfetto. A noi piace farci male, così. Ma guarda, è una vicenda tristissima, ma non è soltanto, non riguarda soltanto il calcio, vicende più tristi. Io seguo anche altre cose ormai per il mio giornale, non soltanto gli appuntamenti sportivi. Sono seguito la vicenda del treno, problema reale, deragliato ad Andorra, l'avrete visto. Bene, sì. Siamo nel 2014, ma anche lì non sappiamo quando inizieranno i lavori per togliere questo treno, di chi sono le competenze, chi va a prendere un treno adesso in quell'area intermittata, purtroppo, e non soltanto per colpa della ferrovia, non sa a che ora avrà il pullman sostitutivo, a che ora partirà davvero un treno. Sono tutte cose paradossali, anche per vicende più importante rispetto a quella dell'importantissimo derby di Genova. Con calma, mañana dicono gli spagnoli. Grazie Giampiero. Viva il derby. Grazie a voi. Speriamo che ci siano i tifosi dentro, però, perché poi. Entrano. Tutti convocati. Vogliamo vincere le due partite, più particolarmente l'Inghilterra, perché c'è una squadra che fa due anni che siamo veramente vicino di vincerla, e vogliamo, e sarà la prima volta che la nazionale va a vincere l'Inghilterra. Sei mai stato a vedere il rugby, Pierre? Sì, a Roma, al Flaminio. Questo è l'inno del Galles, sì, cantato da quelli che oggi sulla Gazzetta dello Sport, carissimo Giacomo Bagnasco, ciao. Ciao, buon Alessandro pomeriggio. Zanni ha definito così: tifosi ululanti, vestiti di rosso, su tribune rosse verticali che incombono a strapiombo, dove sabato alle 14.30 l'Italia inizia il 15° viaggio nel Sei Nazioni. Ho letto il più difficile della storia per l'Italia. E probabilmente sì, soprattutto se lo mettiamo in rapporto al fatto che l'Italia l'anno scorso è arrivata quarta, ha vinto due partite con l'Irlanda e la Francia, è andata oltre le previsioni, e quindi si pensava che questo percorso continuasse, invece sia quest'estate sia ancora peggio questo autunno nei test match casalinghi si sono viste tante difficoltà da parte degli azzurri, quindi un torneo difficile, per la prima volta in 15 anni comincia con due trasferte consecutive, e quindi sì, Galles e poi Francia, così tanto per servire subito il menù iniziale. Italia che viene nei test match da un solo successo in sei partite. Saluto Leonardo Ghiraldini, vice capitano di questa nazionale. Ciao Leonardo. Ciao a tutti. È il più difficile di sempre per quanto riguarda l'Italia questo Sei Nazioni, o esagera chi l'ha scritto? Ma guarda, senza dubbio è difficile, però io guardo sempre le cose positive, è sicuramente molto affascinante anche esordire comunque in uno stadio del genere, Millennium Stadium in Galles, è fantastico. Ovviamente non siamo in casa, però insomma si respira vero rugby in quella città, in quello stadio, e insomma c'è tutto il meglio possibile per poter fare una grande partita. Su chi facciamo la corsa per vincere una partita, per evitare almeno. Sì, vabbè, insomma, con chi abbiamo più possibilità? Ma guarda, credo che la forza, insomma, la forza della nostra squadra e diciamo il buon risultato che avevamo conseguito l'anno scorso nelle Sei Nazioni si è derivato proprio da questa capacità nel gestire giorno dopo giorno e partita dopo partita, non dobbiamo guardare veramente troppo avanti, c'è questa sfida che ci attende che sarà sicuramente molto molto dura, però il Sei Nazioni è un torneo molto, molto faticoso anche sotto l'aspetto mentale, quindi è importante partire con il piede giusto, è importante ritrovare i meccanismi di squadra che magari a giugno e a novembre dell'anno scorso abbiamo un po' perso. Ma credo che già insomma la risposta di queste due settimane di allenamenti sia stata più che positiva, c'è grande voglia di far bene, quindi io non mi focalizzerei troppo su una partita in particolare, anche se è ovvio che le partite in casa che abbiamo con Scozia e Inghilterra possono in casa essere, sì, possono un po' essere più abbordabili, sulla carta abbordabili, certo, rispetto alle altre, però almeno parlo con la Scozia, diciamo, Sì, senza dubbio, però insomma godiamoci intanto questa partita, cerchiamo di fare il meglio possibile e ovviamente di entrare in campo per vincere, per performare e poi vedremo. Sì, ho letto che l'elenco di quelli che mancano fuori per infortunio o per motivi vari è lunghissimo, Giacomo ha sotto mano la formazione senza stare a leggere tutti e 15 nomi, mi pare di aver capito largo ai giovani. Largo ai giovani. Sei vecchi, non ci sono. Ma non è tanto così. Diciamo che largo ai giovani nel reparto arretrato. Ci sono tre giocatori di 20 anni, Esposito, Campagnaro e Allan, che hanno in tutto 5 presenze. Esposito esordiente assoluto, ci sono Sgarbi, Sarto, McLean in una linea arretrata molto giovane ma molto prestante fisicamente per affrontare questi armadi velocissimi degli specie di John Alomu Bianchi che sono i tre quarti gallesi. Invece molta esperienza in mischia, naturalmente confermatissimo Leonardo Ghiraldini, nostro ospite, tallonatore, che sarà il nostro testimonial anche per lo speciale Sei Nazioni sul sito del Sole 24 Ore. Vi diciamo anche la URL: www.ilsole24ore.com/seinazioni, col 6 in numero, che da domani sarà visibile. Ringraziamo per questo, lo ringraziamo, e lo ringraziamo anche perché adesso ci farà il pronostico, ci dirà esattamente come finirà Galles Italia di sabato. Leonardo, guarda che registriamo. È facilissimo. Mi mettete in grande difficoltà. No, un pronostico è difficile. No, allora ci prometti che l'Italia vince? Ci metteremo tutto, abbiamo preparato questa sfida bene, abbiamo visto gli errori che abbiamo fatto contro di loro nelle ultime partite, negli ultimi due anni, e li abbiamo studiati nelle partite che hanno giocato tutto l'anno scorso, quindi siamo pronti e abbiamo voglia di iniziare questa Sei Nazioni col piede giusto, anche se ovviamente sarà una partita molto molto dura, come ha detto anche Giacomo. Insomma, i tre quarti gallesi penso siano al momento i tre quarti migliori nel panorama internazionale. Sì, perché per chiudere, davvero giocare a Cardiff significa giocare in mezzo a tifosi ululanti vestiti di rosso su tribune rosse verticali che incombono a strapiombo, che è un'immagine un po' inquietante, io non so Pier cosa ne pensi. Leonardo, sì, è fantastico, è uno stadio bellissimo, ovviamente ci saranno tante maglie rosse, non è il massimo per noi, però è uno stadio fantastico, e poi è uno stadio enorme al centro della città, e insomma è anche particolare il modo in cui ci si arriva allo stadio, con il pullman che viene accompagnato dai poliziotti a cavallo che passa in mezzo alla gente. Bello, si respira vero spirito dello sport e del rugby. Grazie Leonardo. Grazie. Salutami Castrito, Castrito lì. Va bene. Sta lì. Grazie Leonardo Ghiraldini, grazie anche a te Giacomo Bagnasco. Ricordiamo, grazie, l'appuntamento sabato ore 14:30 al Millennium Stadium di Cardiff contro il Galles, e poi qualche ora dopo sul sito del Sole 24 Ore la rubrica di Leonardo Ghiraldini. 14:30 ora di Cardiff, 15:30 ora italiana, stadio attenzione. Dove si sono giocate un po' di finali di Coppa d'Inghilterra negli anni della stadio meraviglioso, si gioca nel stadio meraviglioso, si gioca anche a calcio. Devo dire un'ultima cosa, Zanni lo vede, l'ha visto anche con le gradinate ripidissime, non sono così ripide. Esatto, questo volevo dire. Però sicuramente c'è un rimbombo, c'è un entusiasmo, è un catino sonoro di un popolo che ama cantare sopra ogni altra cosa. Tra l'altro è uno stadio che si può anche chiudere, sì, quindi ti lascio immaginare, sì, l'acustica se viene chiuso per motivi di maltempo. Sai perché gli gallesi non vogliono che si chiuda? Perché? Perché dicono che Dio deve vedere il Galles che attacca. Stupendo, sono storie, tu pensa, il rugby è meraviglioso, ma Radio 24 lo seguiamo storicamente. Intanto notizia, chiaro Pierre, di mercato importantissima: Vucinic ha deciso che resta alla Juventus. Non so se fa un dispetto a Marotta o lo fa perché è convinto, perché a questo punto mi viene da pensare o parte Quagliarella, ma è difficile in 32 ore mettere in piedi un'operazione, oppure salta Osvaldo. Però in 32 ore si può fare, ci fa in tempo anche a ripensarci. Dici? Si può no, fare. È chiaro che vista così, letta così in questo momento, sembra un po' un'impuntatura, no? Nel senso che comunque alla fine, impuntatura legittima di un giocatore che vuole evidentemente lui voleva venire a Milano a tutti i costi, su questo non ci sono dubbi. Invece la cosa è saltata, ci ricorda Franco Piantanini, da Cardiff al Millennium Stadium, l'esordio con gol di Shevchenko con la maglia del Chelsea e la baciò, era la Community Shield del 2006. Anche un Arsenal Chelsea 2-0 con gol di Parlor da 40 metri. Enrico da Treviso, buon pomeriggio Enrico, ciao. Buon pomeriggio Pardo e buon pomeriggio signor Capuano, e sono soddisfatto della signor convocazione. Signor Capuano, prego. Il signor Capuano. Dottore. Allora, innanzitutto volevo dichiararmi a Pardo, sono contentissimo che lui sia presente in questa trasmissione quotidianamente, perché nonostante la mia eterosessualità dichiaro il mio amore per Pardo. Bene, sì, ma anche il mio, per confronti, noi ci vogliamo bene a prescindere. E poi volevo parlare di rugby, se me lo concedete. Certo, siamo qua, c'è anche Giacomo Bagnasco, prego. E volevo fare un appello affinché la federazione faccia di tutto per tenere i propri assi nella manica all'interno delle squadre italiane, perché ho sentito, io sono di Treviso e sono abbonato alla Benetton Rugby, e siccome ci sono alcuni giocatori ritenuti papabili per esperienze francesi, inglesi, allora ci sono giocatori come Zanni, giocatori come Ghirardi, ho sentito prima il nostro capitano, che si sentono voci, le vorrebbero squadre straniere. Si può crescere anche restando in Italia, Giacomo, si può. Anch'io. Sì, questo si può. Perché sono una risorsa importantissima per il nostro rugby. Adesso che abbiamo i giocatori forti sarebbe il caso di tenerseli, perché Giacomo, sì, sappiamo che anche Lorenzo Cittadini, parlando sempre di giocatori del Benetton, dovrebbe essere in partenza per l'Inghilterra, ed è una cosa abbastanza preoccupante con un risvolto particolare: la prossima stagione è quella che precede i campionati del mondo. Che cosa si può pensare, che cosa si può ipotizzare che le federazioni francesi, inglesi riescano a far giocare relativamente poco, a far riposare i loro giocatori, a fare giocare tantissimo i nostri, e quindi anche in chiave nazionale è un complotto, è un pericolo. Omar da Bari, Omar, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti ragazzi, complimenti per la trasmissione, è un piacere essere Grazie. Convocato. Ciao Omar. Ciao, allora ragazzi, io volevo dire la mia per quanto riguarda il Sei Nazioni. Prego. Ieri ho ascoltato con interesse Genta e il buon Terruzzi, che era un po' critico nei confronti dell'opinione pubblica quando diciamo tutti quanti giustifichiamo tra virgolette le sconfitte dell'Italia chiamandole onorevoli. Io vorrei ricordare un attimino. Sì, però in breve, perché siamo in chiusura, Omar. Sì, sì, hai ragione. Niente, semplicemente forse dovremmo avere un po' più di pazienza, perché la Francia è entrata nelle Sei Nazioni nel 1910 e ci ha messo un po' a vincerla. Hai ragione, però questo è il quindicesimo anno, speriamo di raccogliere. Giacomo fa sì con la testa. Comunque siamo qui e ve lo raccontiamo. Abbiamo finito. Io ringrazio Franco Piantanida, autore di questa puntata, Roby Scaltritti in regia. Pier, io e te ci vediamo domenica a partire dalle 17. Però io ci sono anche domani. Però tu ci sei anche domani. Viernes, torna Carlo Genta. Torna Carlo Genta. Torna. Ha preso un turno di riposo, non di squalifica, di riposo. Ciao Giacomo. Ciao, grazie. Forza di Tarragna. Ci fermiamo. Forza, non molliamo. A domani. Basta sconfitte onorevoli.